Tequila bombon, io la Franky, serata come pazzi, ubriachi marci, pezzati fatti e strafati. Sui divanetti del pop, disco music, robusi che tarosi abusi d'alcol extra fusi. Poghiamo al centro della pista, guardando il culo alla cubista. Ehi minchia che vista, oh. La serata si presenta interessante sotto ogni punto di vista. E mi spesso nella mischia, italiano gusto pizza. Like mandolino, quella serenata Franky, passami il violino. Gira la mia testa bene doppio, triplo. Faccio un altro giro al bar e bevo un altro litro. Pura nitro, glicerina che ti stende. L'ennesima serata fatta sfatta nel panetto, gente. L'atmosfera si riscalda, falla. Dimentica gli amare e ti muove il culo e balla. Illuminata la notte dalla luce delle torce. Atroce reduce da un braciere che cuoce. Voce bassa, occhio lucido, le uccido senza scrupolo. Miracolo che immacolo in una smoke in oro. Ogni freia lavoro per raggiungere il tesoro. Che poi ci si scapoggia, ci si abbuffa uffa. Apri un'altra busta, scalda come calda rossa. Tira esalta sulla costa. Sono pronto per la danza. Il mio corpo è pronto a sopportare sostanza. Giù in spiaggia, facce scure. Dal sole che ti ustiona, peggio delle torture. Nobili creature, con toppe minigonna. Con faccine vedita dico la madonna. Cerco la mia onda, che sia moro che sia bionda. Tranquilla amico che la mia barca non affonda. Vieni signorina che ti porti in alto mare. Carpolpi e scogli bianchi, so cosa devo fare. Ballare, saltare, frecchimi sul beat, sempre pronto per spaccare. Estivo forza mille, pronti a far scintille. Serata senza luna, ci sono le mie pupille. Non faccio indigestione, cerco soluzione. Fine primo tempo, caricami un bel cilone. Illuminata la notte dalla luce delle torce. Atroce reduce da un braciere che cuoce. Voce bassa, occhio lucido, le uccido senza scrupolo. Miracolo che immacolo in una smoke in oro. Ogni freia lavoro per raggiungere il tesoro. Che poi ci si scapoggia, ci si abbuffa uffa. Apri un'altra busta, scalda come calda rossa. Esalta sulla costa.